Lampa di tutto già. Che faccio io a tutti i figli della roba? Ciao Gianni. Ma sei sveglio, non sta pignando. Ehi, ma io mica sto a dormire tutta la sera, mi. Io è da stamattina che volevo uscire. Infatti adesso devo fare un po' di commissioni, devo andare alla Opel a chiedere quel pezzo dei vetri elettrici. E mi mette in moto, dai. E come mai voi così presto in radio? Partire a sociali con successo, perché io ho avuto dei problemi personali. Sociali con successo, ho controllato tutto. E a posto, sto riuscendo, è proprio l'apparato, non c'avevo più stazionale, zero di stazionale, poi il cibo che ho fatto. Ma hai mosso qualcosa, hai mosso il PL? Qualcosa deve aver toccato, no? Per vedere la stabilità. No, non posso niente. Sicuramente l'ho guidata, c'era sopra e ieri mi ha chiesto di rilassarsi lì, come stava dicendo appunto quello. È bastato. Prendi un po' di carote. Ah, le carote, sì. Capito? Ho detto, è bastato il tuo sguardo, l'antenna che si è rimessa a posto. Grazie a Dio, non ho toccato niente. Ti volevo dire già che uffa, Natalino sta provando quel Omega Force e lui esce bene. Esce bene le radio in varie posizioni. È proprio completamente diverso da come uscivi tu, lo sai. Non lo so il perché, mistero. Forse tu hai la voce con toni più bassi. No, no, ancora no. E gli ho detto provalo prima, poi se ti viaggi se va bene, però voglio che senta, c'è un moscerino, voglio che senta il parere di tutti, in modo che sia soddisfatto. Va bene, a dopo, ciao, ciao, sto uscendo, ciao. Riprenderò dalla macchina, dai. Sempre non finiscono mai le spese e dobbiamo risolvere questo problemino alla macchina perché si è bruciato il contatto dei vetri elettrici, no? E dobbiamo fare la revisione a giugno, quindi voglio che sia tutto a posto la macchina K. Quindi cominciamo a mettermi in moto, dai. Ciao anche a te Valerio, ciao, a dopo, ciao. E vai a Bacia Carrozzo, te l'hai preso una seconda mano. E ci ho pensato già, ma loro hanno interesse a venderti tutta la portiera. Cioè non ti danno la pista del circuito, no? Dove c'è, è come un circuito stampato, no? Dove ci sono le piste, i contattini, cioè loro ti vendono tutta la portiera, non gliene frega di venderti queste minuterie, capito? No, già ti rimonta, quello che ti serve ti dà. Io una volta ero disperata perché avevo rotto una macchina sulla strada, questa macchina l'ha presa in pieno, si è fatto la monta quadrata. Io ho cercato di scartarla, ma non ce l'ho fatta, l'ho fatto con l'altra volta e anche io me l'ho fatto un po'. Non me l'ho fatta quadrata come quello che c'era prima di me, ma un po' scontata. Allora sono andato da una specie a volte e gli ho detto, se ci avessero una volta di scorta, io. E mi va in sicura, io felice, è stata roba nostra. La volta non è mai stata toccata, Marco, roba di te. Buono, buono. Si può chiedere al limite prima dagli sfasciacarrozze e poi alla Opel, se te lo danno bene. Ma è una cosa ridicola, costerà 5 euro. Magari loro te la fanno pagare anche 10, ma meglio che alla Opel. Alla Opel te la fanno pagare una follia, mi. Poi però bisognerà provare dall'elettrauto per vedere se è saltato il fusibile o se è tutto a posto l'impianto elettrico, perché se sai, avendo fatto il corto, cortocircuito, questo uscire il fumo, magari ho saltato il fusibile o qualche filo può essere danneggiato, insomma quello lo vede lui, io gli porto il peggio, poi si arrangia. Ok, a più tardi, ciao ciao. Ciao Marco, se non sei sicuro che sia il pezzo non lo può fare, fino a passare la verità. Secondo me lo sta. E anche, solo che io per esempio dal pezzo proprio ho visto uscire il fumo, e meno male che ero presente, magari se avessi chiuso la macchina quello pigliava fuoco tutto, e te lo immagini per una cosa così stupida. Va bene, dai, a dopo, ciao ciao, sto uscendo. Gianni, ma su Giuseppe. Non sta parlando. Cioè no Gianni, Natalino, te lo dico io cosa ha fatto, ha messo l'RFG in a zero lui. Gesù, Gesù. C'è nessuno, sta anche bene. Abbiamo provato a varie distanze, 10 centimetri, 20 centimetri, tutto il braccio. Non usciva come te, tu uscivi proprio così, non capisco. Vabbè dai, fatemi andare, se no vedrai che ha messo le refeghine a zero, Natalino. Gesù. Adesso pensa che non funziona. Eia, o che non ci sia nessuno. Oi, oi, oi. Gli occhiali, bisogna rifarsi gli occhiali. No, ma è il segnale che si muove, quello ce l'ho bene. Ma già lui è dentro casa e riceve basso. Se l'RFG l'ha messo a zero, non riceve più niente da lì. No, com'è, ha cambiato la terra la notte, lo sento tre volte più forte. Però lui non deve alzare troppo, gliel'ho detto ieri, perché ha un alimentatore da 5 ampere, quindi deve mettere il mic gain un po' basso e deve uscire con 4 watt, 5, 10, però non di più, perché sennò l'alimentatore non ce la fa. Io adesso l'ho visto, stava arrivando Santiago 9, quindi deve aver toccato tutto, deve aver messo tutto a 40 watt e così si crepa l'alimentatore. Vabbè, vabbè, ciao ciao, non riprendo, ciao. Ciao. Aspetta, perché devo fare un'aspetta, ma non ho ancora capito niente, non sono andato. Andà, ora! Ehi, Natali, ci siamo, non so se ci sei. Valerio! Natalino, ci sei? Guarda a vedere adesso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mi ascolti? Io sto uscendo. Io, guarda a vedere, Natalino, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Guarda a vedere se mi ascolti. Natalino! Non risponde, va a pignare. Attacca l'altro, la talice, non mi dice, mi ascolti. Ora, ora, ora. Capito, a posto. Oh, non lo so. so, forse roba tua. Gianni, ci sei? A me mi senti, Natalia, a me mi senti? Natalia, a me mi senti? Natalia, mi senti? Natalia, comunque stamattina stava andando bene, quindi qualcosa ha toccato, non lo so. Bravo, a dopo. Ciao, a dopo. È sceso dalla macchina? Ehi, avrei toccato qualcosa, Natalia, dai, già sta venendo Marco. Ehi, ha detto che stava attaccando la radio, sta venendo da te. Io ti rispetto, io lo dico per me, io non ne ho mai avuto dei problemi di pelle, nulla, né nato isolante né niente, capito? Per quello, quindi appena è fattibile si abbassa un attimino, si fa un po' di manutenzione e si fa questo lavoro, e vedrai tu che può arrivare tempo bello e tempo brutto, lui rimane sempre bello stabile. E comunque dicevamo, la giornata adesso c'è il sussente, ce l'ha scaldo veramente, ci ha dato un'occhiata alla sera, adesso bello prima proprio, prima di scendere di troppo a vedere se va bene, e poi dice no, chiama Claudio, non lo facciamo. E poi c'è che se guardato, deve stazionare, proprio nemmeno uno, proprio appena appena la cucina, ma come sempre. No, ma non vedo il segnale, sei 9.25 già. Questo è il tuo segnale, ieri 9.10, capito? Sì, ma ieri per parlare dovevo usare l'accordatore, capito? Con l'accordatore scendevo in 2, massimo in 2. Però se usavo il magno che esce con 20 watt, cosa succedeva? Che oscillava il segnale, capito? Me ne accorgevo perché sia il watt, sia... Sì. Io l'ho sentito stamattina al mattino, abbiamo fatto le prove, era quasi Santiago 7 qua, figurati, quasi Santiago 7, arrivava Santiago 3, Santiago 7 Radio 5, e lui mi ascoltava molto bene, capito? Poi non lo so cosa è successo. Sì, ma sono tutta qui, io la sentivo, lo sentivo, mi diceva c'è nessuno, io avanti la stagione, c'è nessuno, avanti la stagione, alla fine del telefonato, la stagione, guarda che mi sto ascoltando, però non mi rispondi, ma io non c'è stato nessuno mai via. Prova a chiamare, ho provato e sentivo in diretta l'apparecchio, si sentiva questo, basta, ma non è che hai toccato così, avvicini, no, non ho toccato nulla, ma poi se esce non è quello lì. O l'RFI perché l'unica cosa che ti chiude è la ricezione, oppure vedrà che cosa che non anda. Ti ripeto, a me mi sentiva molto bene stamattina, mi sentivo bene a lui, poi l'ho sentito anche sul video che stava facendo altre prove. Adesso vediamo, è andato Marco a vedere cosa c'è. No, comunque arriva molto bene. Caspita, Santiago quasi 7 arriva. E via Santiago 3 prima. Sì, ha bisogno di farlo la notte anche di radio, esce bene. Ma ricordo che il cazzo esce bene e di radio, se ti finisce. No, vediamo. Attento Marco. Dai, comunque hai risolto anche tu. No, bellissima giornata. Sì, io dopo mezzogiorno sono salito su a dare un'occhiata e niente, perché l'altro giorno sono salito, non me ne sono accorto, era tutto a posto, ho visto anche la manta, va tutto ok, tutto a posto, e sono accorto che c'era il coso, un isolatore di testata del PL, del coso del dipolo rotto. Sganciatelo, sono sceso giù, ne ho preso un altro e gliel'ho messo nuovo, capito? Però dico, a spaccare uno di quei cosini di plastica, ci ha tirato un po' quello vento, giù. Sì, ha tirato un po' di plastica, già appunto che il vento era più forte di questi due giorni che hanno detto, non era 80 di certo, perlomeno qua a casa la terra si chiude, guardate la giù. La mia antenna era bloccata al centro, ma a parte superiore faceva come quando abbocca un pesce grosso, capito? Andava di colpo, si abbassava e poi risaliva, come da le folate del vento, no? Però, certo, il sistema bene, non c'erano problemi, però la piegavo, io l'antenna così pigliata non l'avevo mai vista. No, io la manco, l'ho accorto messo. Nulla, no, la mia, vabbè, c'ha 4 metri di tubo d'acqua, da un pollice e mezzo, basta, non siamo tutti avanti. Mi preoccupava più le altre antenne, ma ho visto che hanno tenuto abbastanza bene. E di poco me ne sono accorto tutti. Vabbè, problema risolto. Però no, non succede niente. Con le filari, cosa deve succedere? Già va bene. Un po'. Marco! Sicuramente stavo parlando. E comunque qua è strano, non ho mai fatto la mappa, ma per dell'umidità, più che ho preso, niente, adesso magari perché è già stanotte con una stessa, diciamo, tu lo sai, te lo ricordi quando l'abbiamo piantata, mi stava più di 10 anni fa. Buono, più di 10 anni, no, la mia è nuova già, la mia ci avrà 4-5 anni, non lo so, non mi ricordo, 4-5 anni già, però ci sono tutti i cavi pieni di sale, capito, tutti i cavi pieni di sale, completamente, invece abbiamo fatto un po' bene, tanto per me è una sciocchezza, perché non c'è assolutamente niente, l'abbasso, la tolgo, mi do una bella passata di cose, di straccio umido a svitto, la pulisco bene, la faccio lucida di nuovo e poi la ripiazzo, capito? Così è più pulita lei, più pulita. La mattina ho fatto anche le altre due piccole, le direttive piccole, quelle V1, pulite tutto, le agganciate PL. Un bel di vento ha fatto, minchia, ma vento però, mamma mia, ci vedi come ci sono i vetri della mansarda, sono bianchi dal sale sono. Anche il capo alle 10 qua notte è bianco, infatti pensavo che fosse perché era un picchio, invece l'ho controllato, era morbido pure, non era proprio secco come il capo. Che ne dica, ma quello che vuoi, però c'ho 13 anni, va bene, a me non mi coscite bene. E io dopo un po' c'è un po' più grosso nella finestra, capito? Se mia moglie non voleva, adesso vabbè, non c'è nessun problema, lo posso fare in modo. E vabbè, però già è da cambiare, cazzo, non puoi tenere un cavo a 13 anni. Io avevo 10 anni in 213, quando l'ho tolto era completamente nero, ed è superiore. Immaginati com'è quello dentro. Non puoi tenere così tanto un cavo, capito? A meno che non sia un cavo buono, vedi, una Camille ti dura molto, è un cavo resistente, eccetera, ma la 58, essendo un cavo fine, non puoi lasciarlo così tanti anni, quindi anche quello è da fare, deciditi. Vuoi rimettere il 58, si rimette il 58, però si mette nuovo, capito? Si mette il 58.000 con la doppia calza, con la calza stagnola, si mette un cavo, insomma, un po' più buono, oppure anche quello, però lo metti nuovo, non puoi tenere così tanti anni. E allora quando vuoi lo facciamo. Adesso è in primavera, inizia il tempo bello, capito? Una domenica mattina, tribunimo, un caima, si sfida quello e si attacca a quello nuovo, si abbassa l'antenna, si pulisce, si fa un po' di manutenzione già. Così l'inverno è tutto a posto, capito? Ciò già viene attaccato addirittura con la mantassa, solo che si è ingalluggiata, bisogna sbrogliarla. Già va attaccato già il piede, tutto pronto per metterlo sul capito. Si fa già, perché troppo tempo ce l'hai quel cavo, vuole cambiato. Io quando ho montato le direttive ho cambiato tutti i cavi, tutti, ho preso 50 metri, ho fatto un'unica calata, capito? Un'unica calata per il coso, per le direttive, e poi tutti gli spezzoni che vanno dal commutatore d'antenna su, perché io ce l'ho su, alle antenne. Mentre quello della mantova l'avevo già messo nuovo neanche un anno prima, però è tutto nuovo. Ma vedete, io ci ho bucciglio buttati, li ho fatti tutti a pezzi buttati in cassetta, non ho detto. Non è avanzato manco uno spezzone per fare un pezzo qua interno, capito? Completamente neri erano i cavi, tutti neri. C'ha il capo più grosso di massa, c'ha i radiali pieni, non so, pure sono pieni dentro, tenuti dalla lenza. Insomma, era tutta quanta stata riportata a verso l'antenna, è stata rifatta la pianina dove attacca il piede, solo che adesso ci sarà più partita, mi sembra che l'abbiamo messa perso tutto, ho fatto dicendo che l'avevamo fatta riprestare in pubblicità, passate dall'acciaio, lo sai cosa è passato, non lo conoscete, perché ci sono deciso dall'acciaio, sono passato sull'antenna, ce la fanno pubblicità. E già, se la vuoi far tornare a normalità, quando facciamo il lavoro le cambiamo il piantone. Io c'ho il piantone nuovo, vabbè, vuole pulito. C'ho il piantone nuovo, io con i radiali nuovi in fibra, capito? Quindi non è che ci vuole molto a togliere quello, si conserva, si mette il piantone suo originale con il radiale in fibra, nuovi, e si abbiglia il luce. E ormai non c'era antenna nuova. Era Mantova 1, piantone Mantova 1, 4 radiali. Ma diciamo che quei radiali lì c'erano specificati, per quello che detto di addirittura fuggevano, non faceva tenere con la mano perché fuggevano. Beh, dopo tanti anni questi sono nuovi già, hanno pochissimo tempo, erano dell'altra antenna che ho tolto, che si era rotto il coso, capito? Si era rotto, non mi ricordo che cosa, era andata in corto, comunque l'avevo comprata nuova, però avevo recuperato il piantone e i radiali. Non l'ho recuperato, quindi quando vuoi pure, si può fare anche quel lavoro, visto che stiamo facendo. E così torna original service. Beh, Marco Conlo, andata a Pignara. Andata a Pignara, a fare la spesa, quando l'ho chiamato. Siamo sentiti poco fa, è andato da Natalino, ha parcheggiato lì, ne ha staccato il baracchino ed è andato a casa di Natalino a controllare cosa è successo. Ah ecco, sì, stavo andando, ma io non sarei parlato io, non ho visto, ma ha detto qua passo a casa a controllare. Stava già morendo, speriamo non me l'abbia toccato. No, non tocca niente Natalino, evidentemente. No, evidentemente no, non ha toccato niente. E vabbè, comunque, in ogni caso, se non ha toccato niente dovrebbe andare, dovrebbe esserci qualche cosa che magari è regolato, perché i fatto che hanno aumentato, da com'era a com'era, ma hanno aumentato anche adesso male, quindi qualcosa l'ha toccato. Magari toccano queste cose lì, ha toccato qualche altra cosa e si è toccato la gestione. Stavo detto, usciva benissimo, usciva va bene stamattina, capito? Quindi non lo so, vabbè, ma vediamo cosa dice il medico quando va lì. Poi ha detto che mi ha detto passa, se mi ascolti passa sul 7, io l'ascoltavo benissimo, sono passato sul 7 e poi mi ascolti l'altra lì, passo. Se non è l'antenna che è andata in corto e il baracchino non c'ha niente. Se ci avessi avuto detto non l'avresti vista. Ma fatto in casa, no, la quarantena, le abbiamo chiesto, ha detto quella quarantena, non ci può essere, se la facciamo buttare, se la facciamo buttare, se non ce la facciamo buttare. No. Perché non sai mai cosa dire, cosa fa, capito? Ognuno deve fare vita a vanvera, ma deve fare vita sempre. Nessuno ha la macchina era uno sconto, cazzo. Se li si ripoca, a me non me ne ha profondità, perché sono fatto così, io si fido sempre le persone. Se solo dire quello che tu lasciamo di dire una cosa, non me ne frega di nulla di quello che dico. Chiamateci cosa ti dico. Oramai è abituato. Si può quella qua, cazzo, fa vita a vanvera, ne si può quei pesci di... Mi devi lasciarli perdere già. Tanto, non serve a niente. Qua, sciogli buco. Ma qua, per me. Perché hai idea? Questa non l'ho inchinata, questa commessa si avvicina, io non mi sento per fare questo. Si avvicina, mi fa già, si vede il tempo. Mi ha detto, bello ce l'ho. E lui si è messa a me. Oh, io non l'ho dopo, non me l'ha messa per un'altra volta, non è inchinata, riceveva il tempo, però non gli ho detto nulla, perché il panorama era bello da vedere. Beh no, per il signor diceva si copriva. Eh beh, sono passato anche due volte qua. Beh, scusa, cazzo, ma come tu permetti di andare di una cosa del genere? Cazzo, poi, cioè, è una cosa che succede, lo sai perché? Perché noi abbiamo un moto che fa la corsetto, non so se ti spiego. Era un moto, come non l'avessi descritto, che mi ha arrivato la cinghia, capito? Quindi cosa succede? Che tu come tutti si alza il moto, anche se c'è la maglia di sotto, ma poi volte se c'hai un cazzo di vita bassa, come si dà la resa, sì, adesso così vedi, non problema. Tu mi stai preoccupando questa cosa che non si intende più Natale, eh. Attento, Santo Stefano. No, Natale non si sentiva, e tu che non sentiva mai. Non sentivano, non c'aveva ricezione. No, sto pensando che non c'è l'antenna di Natale frigorifero, mi si è incendiata. Buona, sono stato usato quella che usava in macchina, la PDC, io ho una roba nuova ancora in stato. E ce l'ho anch'io quella, ce l'ho sui mansarda, no, non è imbustata, è usata, però ce l'ho, e poi c'ho anche quella frusta, uguale a quella che ha volato a cosa, a Pinocchio, però ce l'ho sempre. Se capita e la devo mettere in macchina, c'è la base magnetica, la metto. Va bene. Sì, vabbè, ma dico, quando gli ha dato potenza, bisogna vedere se hanno aumentato le stazionarie, se è successo qualcosa. Ma stamattina mi ha detto che ce l'aveva a metà, capito? Quindi non era al massimo la potenza. Sì, no, ma avrebbe bruciato i finali uscita un po' di là. Ho bruciato la recensione, la televisione non è recensione. Ma infatti, qualcosa è successo. Qualche cosa, ho pensato di girare qualche manopola senza volerlo, magari cercando le regolazioni, cose. Beh, cosa faccio un po' particolare? Se non conosci le voci, se ci sono le piste, bisogna conoscere l'apparato per toccare. Ma sì, va bene. Quello di un fa. Adesso Marco vedrà cosa si può fare. Vabbè. Comunque i baracchini sono baracchini, a volte sembrano anche facili da usare, poi basta toccare una cagata e fai danno, capito? Sì, infatti sembrano facili, a volte anche a me che si c'è spolverando, magari tu dici già la regolazione non è quella di sempre, e per forza magari piace che sto passando il pinino, no? Quello che mangia a polvere, quello che li devi dare, non so se l'ha mai visto, in certa legge ci mettono questo pinino, che lo devi praticamente segretare per una decina di volte, e poi attira la polvere. Sì, da franco provvisionato, quello che sempre a bucci. Ce li ho quei panni, ce l'ho per la macchina, ce l'ho per le radio, capito? ogni giorno io passo il panno sotto le radio, sotto, sopra, dietro, l'unica cosa è sotto le radio, si forma la polvere, e quello ogni 15 giorni le sollevo, le passo lo straccio, capito? Ma io non le posso usare, le mie sono attaccate nel piano. Le mie radio sono attaccate con quel pianesimo per non muoversi. E cosa è successo? Che quando vai a attaccare si piega il ferro ma non si stacca il pianesimo, una cosa micidiale. Io dicevo se è buono, però Manuri, quelli sono buoni, quelli sono eccezionali, ce l'ho anche io, però mi raggi il gracito dell'elettricità sempre, io vulcanizzante, un altro biadesivo, un altro quello, lui compra tutto l'aircon, capito? Ma tanto venire in grancio, quando viene a fare qualche lavoro, insomma, l'altro giorno ti hai visto, no già, vuol dire ce l'hai in macchina, si chiama come te. Allora va ne prende un altro rotolo e gli altri mi fregheggi bruisci. E ce li ho quasi tutti i colori, ce l'ho nero, rosso, blu, verde, ma quelli buoni e quelli grandi buoni, capito? Attaccare gli accappatori, eccetera, eccetera, il bagno. No, ci sono i pomelloni in legno nel bagno, aspetta che le accappa tutto. Allora me ne mancava uno per il bidet. Allora ne ho preso uno piccolino, gliel'ho attaccato e ti dico che è sempre così, capito? È sempre così, no, non ci sono problemi. Te l'ho detto Giulio, però devi comprare un buon che sta le segni. Ce li ha quello che vende le pentole, le cose, li vendono. Però sono buoni, capito? Non sono quelli cinesi. Quelli cinesi non servono a niente. Cosa ne fai? Ma ci ho ubriato l'altra volta perché non avevo voglia di andare giù a Cosa. Ho preso l'acqua che dai cinesi qua che sta le segni. Non serve a nulla, non serve a niente. Sono andato giù a Padania dall'altro giorno e l'ho preso all'Abrico, ma un'altra cosa attaccata, che però, capito? Non serve a niente, quello cinese, sono tutti cosi contraffatti. Ehi, dai. Adesso per non anche il mal di me per il cane al pesce, 6 euro, mal di me per il cane, mio cane. Sicuramente l'antenna sì. E cosa è successo? Cosa l'hai gribata? Sì, buonissima, come stamattina, perfetta. Aspetta, già, ho detto che è perfetta la radio, perfetta come stamattina. Ma stamattina cosa ti ho detto? Eri Santiago sì, radio Super 5, la bomba, capito? Sembravi con l'antenna eterna, capito? Quindi sicuramente gli italiani è andata in corto l'antenna, perché Baracchino non può essere, l'abbiamo provato stamattina. Sul Top Gun è ancora più forte. Perfetto, il RC 800, ancora ce l'ho fanata, 40 euro, KK, sì che sta bene. No, me l'ho comprata l'altra lì in casa dove si compra la macchina nuova, l'altra non ha più tutto il cazzo quella lì. Già va bene, Simano. Come fai di andare almeno per il cervello? Vabbè, quindi cosa avete deciso di fare adesso? Ma lì la faccio di fuori in casa, come c'è la rosa verde, e si potete di su. Ma te la metti? E ci a volte. E ci mette a fare la biancheria pure per asciugare. E allora, quando ero andato con la buona anima di Torrellaia, Gavino Passero, che eravamo andati a trovarlo, penso che ha detto cosa è sta cosa, ma dentro stendi, ma voglio dentro, questo è il filo per modulare, il dipolo per modulare, e gli ho detto bu bu. Sì, oggi va forse, era un ingegnere, non so che cosa facesse, dicevano che era un ingegnere, comunque una volta è stata quella batteria che c'aveva per tutto il pieno di vino a 100.000 lire al mese. Io non ho più vissuto, guarda, tanto per la partita era su quello di Lina. E poi c'aveva il Catalina 2, me lo ricordo ancora, quello senza spinta. Eia. No, quando sono andato io c'era il Multimove 2. Il Multimove 2 ci avrebbe, e infatti io non lo conoscevo quella radio ancora, capito? Perché ero appena arrivato a Sassari, ero con Torre già a casa di mamma. Vabbè, con Torre ci conoscevamo già da prima, con Gavino lo stesso, con Giuseppe, anche perché andavamo spesso a casa di Bartolomeo, quindi io li avevo conosciuti lì. E però quella radio non la conoscevo io, e c'era il Multimove 2. Sono conosciuto con Catalina 2, no, no, no, io con lui non l'ho conosciuto. Ci aveva attaccato il Multimove 2 con il cambio della batteria, capito? Cambio la batteria, c'era il Multimove 2 con lo Smith e il tuo di Polo 31 gas, abitava praticamente dietro a Tonino Cavasacchi. Sì, abitava al corso, andava a passare il corso con te. C'era la moto, la lambretta con la rosa verde e quello del classico. E tu hai la moto di Galè, a Giulia. Non è che per la rosa verde, gamba. Era amaro, mamma mia, è un pitballe che era. Io già allora c'avevo leggi e c'avevo il pizzo, no? C'era più a lungo, non di quel pizzo che ha un senso di superiorità nei confronti degli altri con questo pizzo. E a me mi aveva detto che c'avevo la KB23, col cane più della tavola. E mi diceva sempre, ma poi se dovevo prendere frutta. Gli dico, ma perché? Perché sei tutto amplificato, sembra che devi prendere frutta. Penso di sì. E poi io un bel po' di anni fa quando avevo trovato in testa la casa con questo campo pesante, mamma mia, questa pisata sulle spalle. E io nel 131 a volte l'ho incontrato raccogliendo lì via l'Italia, uscita via l'Italia raccogliendoci che sigaretta. Eppure non ero male, ma non è perché era laureata. Ah boh, cosa vuoi dire? Non lo giaccio, però ti ripeto, bei tempi. Volevo una vittoria, mi ha risata di fazia, andavamo a trovarla apposta, ci aveva di tutto e di più dentro quella casa, esci una gallina di vede. Ma due batterie sono esplosi, ma aveva tutto un muro pieno d'acciaio e diceva attore, ma perché non ne metti una dentro la scatola, dentro un contenitore? No, scaldano troppo quando scoppiano in medio. Ma mi ha insegnato il modo per attaccarsi alla corrente degli altri, mi era già passato in gara facendo l'attacco e il collegamento per avere la luce da rubata dagli altri. E poi alla fine della rivolata, ti ricordi che lì all'angolo, proprio in quel vicolo, prima di fare la luce era un carrozziere, c'era sempre una prolunga di quelle grosse, gli aveva data lui la corrente. Ha detto che c'era volante in tutto elettrico, come doveva toccare la porta per prendere la scossa di notte, attaccava l'energia elettrica alla porta. Sì, mica era vero, mi, attaccava la corrente allo grocco, c'era un gancio che chiudeva la porta, capite, quelle porte vecchie, attaccava la corrente lì, o della maruga, e come l'aria a notte, mi fregano tutto. Comunque, sabato non si fa nulla. Già, io per me è meglio organizzarci meglio. Ho sentito a Stefano, Elio, a Cosa, Valerio, capito? Poi non c'è Eugenio. E questo mi dispiace, capito? Poi secondo me Marco non c'ha più manco una sisina. Sì, la prossima settimana non so se posso venire io. Libero questa, la prossima non lo so. Sì, quando si libero, noi abbiamo di fretta, tanto ancora c'è freddo, la pizza ci iniziano le giornate, cambia l'orario, quindi possiamo mangiarci una pizza, andare a mangiarci un gelato, stare di più, dai, capito? Perché quando c'è freddo così, ti mangi la pizza, ti fai due chiacchiererie e poi te ne torni a casa, invece magari possiamo scendere a Portose, a farci un giro, capito? Completare bene la serata, amico. Aspettiamo, perché Stefano mi aveva detto che ce l'aveva qualche giorno libero. Sentiamo un po' e ci organizziamo meglio, capito? Tanto Elio è sempre disponibile, Valerio non c'è problema. Eugenio basta non sia di sabato, perché lui di sabato se ne va col camper, capito? A meno che non devo uscire di domenica, di sabato non esce, allora è diverso. Sì, ma ci sono dei locali, io lo so, ci sono dei locali a Predarieta, tipo qui si dice a Città Mercato, che si canta, c'è karaoke, puoi cantare dal tavolo, oltre a mangiarsi la canta si faccia tutta la serata, non è così, no? Ci parla amici miei, amici miei, che adesso mi hanno mandato il filmato, cazzo, stavo ripartendo la mano, cantavano per il posto sta microfono, cantavano dal tavolo, eccetera, e hanno sempre, sono sempre andati, dice, dove è questa famiglia, ma è sempre, dove c'è la Città Mercato, questa famiglia. Sì, c'è anche quello del bricco, da Daniele, ospiti gay, non è un problema quello, lì riconosco tutti, anche lì c'è sempre musica, c'è televisore, c'è tutto, non c'è problema. Quindi va bene, dai, va bene. Sì, sì, un locale come Cristiano, perché lì al Tebrecchi è il mercoledì, il martedì e il giovedì, mi pare, capito? E pizza, e il sabato e la domenica è tutto per bambini, quindi no, non vedremo nulla, perciò ci organizziamo diversamente. Sì, va bene. Va Kappa. E beh, Marco. Dice che stanno arrivando le bollette dell'acqua. E dove? Ma l'ha detto l'amica che ha pensato di offrire. Ah, se mi è arrivata la bolletta l'acqua, non l'ha pagata. No, non ce l'ha di fare noi. Non è arrivato direttamente all'ufficio dell'amministratore. E quando fa il giro per ritirare il condominio, lo mette per iscritto, no? Quota acqua, e ti scrive quanto devi dare. L'altra volta, io non ci arrivo ogni bimestre, non ci arrivo ogni bimestre perché siamo tanti, quindi è un casino. Arrivo ogni 4 mesi, ogni 6 mesi, e poi lui fa le ripartizioni, non capite? L'ultima che ho pagato mi pare che era di 20, boh, 30, o 32, o 22, una cosa del genere. No, sbaglia qui, ma la tassa mondetta mi ha detto, se ti ricordo, tassa mondetta. Ah, tassa mondetta, no, non ho ricevuto niente ancora. Ma com'è? Però non l'ho pagata tutte insieme, non ne ho pagata la rata. Ma tutta la mente, tutte le rate me le ho pagate per una volta. Poi sono rate piccole, lo già. Sono rate piccole, capito? Ogni volta andai in Chivia a fare la vira, anche io l'ho pagata tutta in una soluzione. No, oh, Claudio, io l'ho pagata tanta parte che c'è a lune sole, l'ho pagata. Non ne vale a fare il tabacchino, 260 euro, gli ho dato contanti per avere, però se non è pagato. 260 euro contanti, e mi ha pagato la bolletta. No, mi ha molto di meno. La mia molto meno, 100, neanche allo 100 euro arrivavo, neanche allo 100 euro, e quindi, no, io ho le poste qua, ho già tabacchi, ho le poste qua, vi ho Follanini, basta che non vai dall'1 al 10, capito, che sono le pensioni, dopo il 10, anche la luce è lo stesso, anche la luce è lo stesso. Vado sempre al tabacchino, ma non che non ci sia un bel di gente, allora vado lì a coso io da... Voglio cercare un poleno, dai. Ma non c'è bisogno tu che salvi via Lunesole, perché sai via Lunesole? Ce l'hai lì all'uscita del vialotto. All'uscita del vialotto che c'è la rotonda, non c'è il tabacchino, dove c'è Muritto, quello fa tutto. E poi, vabbè, io mi trovavo lì il giorno, stavo andando al mercatino e quindi me l'ho pagata prima di andare, sono andato al mercatino, e sì, è capitato così, là, però ce l'abbiamo, a Buglia, c'è via Mascoli, c'è quello dietro via Pidandello che li fa, se... Adesso facendo fila, l'ha pagata a macchina, buonanotte, e mi spara un tempo di denaro, perché... in macchina devi cercare la benzina, devi cercare il colore del parcheggio, invece lì ci vai tranquillo, vai, paghi di tanto. No, denaro risparmi perché la tassa alla Sisal è più alta rispetto al tabacchino, al coso, alle poste. No, vabbè, lo risparmi nel senso che non metti benzina per andare, sempre dove cercare il parcheggio, magari devi pagare anche il parcheggio. Insomma, è molto più comodo, dai. Per i mandroni che non vogliono fare niente, io odio fare le file, è una cosa, mia moglie mi dice a papà, ma io sono tutto negato a fare niente. No, anche a me dà fastidio, anche quando vado al supermercato, se c'è molta gente, me ne vado, c'è una nuova tossica, me ne vado, capito? O cerco sempre di vacca in truglio, no, non trovo scatole, no, beh. Ma cosa ha detto Natalino? Che stavano cambiando l'antenna? Che stavo dando un'occhiata all'antenna, ci davo un'occhiata, quella come andava. È possibile che abbia fatto danno, ha fatto danno a qualche PL, no. Ma con l'antenna per legge 500 watt, non è quello. Ah, il più di 300 è adesso. La mia all'orologio la legge un bel, però il capo che c'ha non penso che sia abbastanza bene. No, vabbè, ma lì poi c'è anche che tira che ti tira e poccia che ti poccia, si è andato in corso qualche PL, capito? Sicuramente, quindi basta le fare PL, perché l'antenna, quelle antenne lì reggono un sacco di watt, perciò anziché 8 watt, 4 watt, ne stava dando 20, cosa cambia? Non cambia niente. Della casa, però giusto, invece i bonichi si cagati per queste fesserie che si stanno sentendo in giro. Tutti comprano mini Grand Prix, c'è la Sandro, arriva a Santiago Nova, la produttore c'è Sandro, adesso metto via la manta per rimettere quella, quella dice che fischia un bel un casino, e allora Santiago Nova è qua, una mini Grand Prix, proprio quei radiali, quelli corti, lo stilo centrale è da 2,75 m, e tu ci arrivi tu, cosa sai, un kit di antenne fatte uncinetto. Vabbè, ma sinceramente ce la fa partire del c'è il bambino anche in Marte, che era una radiale, non tocca di lui, capito, ma non che tu riesca a andare del palazzo, allora va bene, ma se lui, non so se ha un buon caso, non lo ricordo, no? Lui ci ha detto, se era stato su era già di pezzo, e allora c'è per quello basta mettere una, tipo quella che c'ha cosa, si chiama, come si chiama quella senza radiali che c'ha Marco, che c'ha Marco, Marco, ma che Marco? No, che sta che Marco è quella di sentire, ma cosa, non si chiama quella, perché c'aveva anche un periodo Antonello Barracuda. Il primo 140 li avevo venduto io nel 1990, presentato l'aviomatore e si è perso anche lui, assieme alla banda del Gobbo. Vabbè, non vogliamo sapere chi è in macchina, comunque se è uno che conosco saluto, se è uno che lo conosco no, ma appunto manca proprio il coglione. E allora salutamelo, tocca del naso. Buongiorno, ciao, il doppio vecchio sono io, ci sono 35 anni frequenta, quindi l'altro deve essere un mio unico. Quasi 40, 38, 39. Sì, sì, vecchio Gianni Doppio Rum, già è lui, già è lui, già è sempre lui, Gianni il Caldo, ciao, sa, bocca apertura c'è in 20 comunque, va bene, ok, va bene, dai, un attimino già che do a mangiare a Filippo, un secondo solo, che mi sono dimenticato, sono già le 6 e mezza. Raffreddare il più possibile, io faccio come i bambini, ci metto il dito, fino a quando non è tiepida, proprio quasi fredda, non gliene do, le fa male lo stomaco, cazzo, mamma mia come sto, no, e poi io sono appena magnato, oh, io anche Filippo se gli ero caldo non ne mangio, va bene dai, sì sì, anche se più ne dai più ne vuoi, salta il pasto, domani, non si ammazza prima, mia, adesso c'è quel piatto di carne macinata, con mischiata con le crocchette di carne stesso, vai. Però è a bagno un pochino all'acqua, gli ho messo le crocchette, l'acqua calda. Arrivo subito. E beh, come ha fatto a farla andare se stamattina stavo uscendo bene? Vabbè, torno subito, io riprendi con Gian. Vai, vai, vai, io devo andare anch'io a fare la spesa. Non mi rassicuri andare, sai. Vediamo se si vedeva anche il rio attaccato, qualche cosa. E non ho fatto che c'era stato piano, adesso è tutto un vecchio, invece qui vuole sapere la città, se l'ha potuto salire. Che il vento, che cosa fa? Non perché io sono oggi a mare lo stesso, anche se c'è la distanza. Sono tutto, vedo Platamona, vedo le navi, le barche, curando la casa. Se c'è i capi tutti bianchi qua, figurati da Sandro. Bah. Va bene, dai, anch'io vedo tutto. Anche la lepre correndo alla Ginara a Punta Scorno, che era come faceva Stefano Simonini da Balai. Mi allontano un attimo, arrivo subito. Natalini, riuscio Natalini. Cosa ne ha fatto? Stavo per cambiare. Va bene, Natalia, anche qua, 5-6. Era giusto che era un PL io. Ui, come sto? A dopo, arrivo subito. Ma non sentire niente, è un casino, cioè. Allucinante, così a me l'antenna ragazzi, era con le stazionali a manetta, oggi nemmeno un tempo, sono cose che tu non riesci a spiegarti, magari ho militato volentieri, ma non me l'avevo mai fatta, ma... e comunque c'era il capo, ce l'avevo io originale, ne avevo due macchine per capo, ancora adesso usato, c'erano il capo. Magari che adesso non ho potuto messo bene la macchina, non lo so. Sta provando, che tu dici tu? Qui perché è per passare. Sono arrivato al silenzio, si ricordo. Ehi, avanti, vai, buone coppere, là, ci siamo. Anche io dovrei fare un po' di spesa. Di la gana, perché si sta così bene a letto al caldo. Sì, vabbè, ma qui ho finito alle 3, sono arrivato alle 3 e mezza, tra posto alle 3 di tutto sono fatte le 4, fanno il pranzo, le 4 e mezza, alle 5 ho cominciato a mangiare il pranzo, quindi ho preso il vigilante, ma io per forza di cose. Già, mi sa che vedo una mossa anch'io, tanto non c'è più nessuno qua. Close. C'è più nessuno? Vabbè Sandro, Marco, Sandro, asciuga mia, come mi assento io spariscono tutti, cazzo, oh vale, come posso lasciare da soli, come sparisco io spariscono tutti, folchi, ma boh, una cosa allucinante, cazzo, lo è, ne stanno facendo i pantaloni, quell'altro deve andare a fare la spesa, quello tricche tracche, no vabbè Gianni doveva andare a fare la spesa, Marco è entrato a Beledì a comprare due cosette, capito? Stamattina è uscito a prendere una cosetta, ma stasera per prendere due cosette, fra un po' deve uscire a prendere tre cosette, se me ne era uscito da un altro posto aveva fatto meglio, più stretto il magno è molto più stretto, ti ho detto. Come lunghezza forse è lungo quanto il magno, ma come è stretto, è molto più stretto. Non sapevo che era così largo, pensavo fosse più piccolo. Vabbè, non ti preoccupare, vediamo di trovare qualcosa di più piccolo, capito? Vabbè, vediamo un po' se troviamo un 48. Cosa va? Ma di che cosa? Più o meno la dimensione di quello che hai già. Ehi, positivo, la cappa di Rogero. Va bene. Già chiedo io, chiedo a Costanzo, se c'è qualcosa di più piccolo che quello non ci sta. Va bene. Non problem. Ui. Natalino. E Santo Stefano, vabbè, attaccato tutto hai, Santiago 7, sì, quasi, dai. Ciao Massimiliano, vabbè, com'è? Ancora non le buste sul cavalletto, vai Ragogio, arrabbiaggio, recupera il giardino un cavalletto, e come mai sei così basso? Santiago 8, sì, 8, 8 e mezzo, sì che va bene. Oh Massimiliano, qualcosa di piccolo per Valeria non ce l'hai modificato, no? Non è così grandi come quello di Costanzo, adesso lo facciamo fare quello di Costanzo ma non li ci sta in macchina. Qualcosa di piccolo non ce l'hai modificato, no? Della serie misura 48. Al tornado com'è? Più piccolo del magno? Ma è come grandezza è uguale, no? Per lui c'è una serie obbligata, capito? C'è una arciere obbligata. E vabbè, lui lo mette in mezzo all'arciere e ce l'ho spazio giusto. Vai, va. No, sì, no. Colte, però la misura lui la vuole tipo una 48, capito? Che non sia molto grande, perché c'è un posto già dove c'aveva l'altro baracchino e lo deve rimettere lì, se no non scorrono i sedili. Posso parlare no, va bene, nessun superstare, tutti quelli di quella categoria lì non vanno bene, le serve un misura Alan 48, capito? O simile all'Alan 48, che non sia più grande dell'Alan 48, se no non li ci sta, non li scorre il sedile, perché lui l'impianto ce l'ha di fianco, capito mi hai? Non ce l'ha lui in macchina senza schiera a colte. Nuovo nuovo, lo vuole con la schiera a colte, capito? Già l'ho visto. Allì a là. Ma c'è come ti ho fatto? È voluto mettere l'amplificante per ascoltarti. 9.10 sì qua, Massimiliano. Un pochino più basso del solito, ma sì, 9.10. Ma questo sei più basso. Ehi, cazzo, si senti a lui? Cazzo, guarda. Adesso sei 9.20. Adesso proviamo. Sono a ragionare un pochettino. Comunque vale, già lo procuriamo, dai, una maniera o nell'altra, vediamo un po' se c'è qualcuno che ha un similare di quello tuo come misura. Ecco, le costanti e quelle Massimiliano sono belli, peccato che non ci stanno quelli. E io ho capito, no, quei baracchini c'hanno tutti il microfono davanti alla mascherina, non ti preoccupare. Già lo troviamo, ok. Avanti, Sandro. Va bene, il soprano 34S, la provincia c'ha qualche lavoro di fare. E poi basta, almeno 8. No. Per il momento meglio. Devi sacrificare un po'. Stamattina ho visto lì un marocchino, l'ho mandato sempre a pulirla, ma evidentemente la coperta di sale l'antenna, perché ho controllato stasera, ho provato il sottostrumento e mi si sono state le stazionarie, uno. Evidentemente era umida l'antenna, con la bella giornata di oggi, col sole, evidentemente è asciugato. No, produttore Gervalì, quando c'è il maestrale fa sale grosso, capito? Si mette nell'antenna, poi quando c'è il sole, come oggi, no? Che c'erano più di 20 gradi, capito? Si è sciolto il sale grosso e si è pulita l'antenna. Ciao Massimiliano, ci aggiorniamo, cambio. Gappa. Ciao Bulldogger, alle prossime. Sono Inocchi. Marco Inocchi, Inocchi Marco, avanti Marco, ripiglia a dire, cambio. Eia, sto rinciuccia, sto rientrando a casa, dai. Ammesso da qui che non mi sentiranno. Vabbè, stai arrivando a casa e hai fatto una spesuccia. Se non trovi il posteggio, la macchina te la metti nel QSO, capito? Così impari a uscire a piedi. Chi è? Ok, vediamo a te. Abbassa questa radio, mi sembri figlio della tira a Caricamboni, che... strappando stai. Strappa pompa. Sì, la radio va bene, basta che non gridi. Segnale uguale a prima, all'altro, non cambia niente, sa. Sempre uguale. C'è anche Natalino comunque, ma voi non lo sentite. Vediamo. Ah, Valerio, qua è sempre uguale. Valerio, come lo senti? Ciao Matto Vra, buonasera. Che volte che vai, Vra? Frontato? Dai, riservati. Vai Sandro. Ehi, ok. Ciao. quello non ha parlato forza, la dottrina dice un attimino di punta per punta, quella che parla a sé. Se tu pratica come di segnale la parte mia, ti sarai venduto. Se sono già stato un po' di fretta, che non va a cioè, ricola, va bene, dai, sei te, ciao bra. Vai, una volta, tutta chiusa, vai. Io mi sto riprendendo e tu sei come intendi. Vai, va bene. Un po' di giorni che non sento un altro Giulio, qua. Attento, Giulio Dollaro, Forza Juve. Oh, non si sente. Nathalie, qui sei? E beh, altri PL in corto c'hai, no? Li hai controllati tutti? Va bene, il segnale comunque è buono, eh? Hai fatto bene. Nathalie, quelli di fuori non li senti, ma noi a Sassari già ci senti. Capito? Mira, venite a volte, e quindi? Ah? E cosa? Figlia che ti ascolto. Cosa? Troppo sparato. E non ci vado a caccia io. Ehi, mi ha staccato il processore adesso. Io questa radio. Mamma mia, come sto? Tutto a posto, meglio di così non si può andare. Pochi ma buoni, siamo sempre qua, mi sento Valerio Larghero. Marco è sceso a prendere due cosette, a cercare posteggio, Gianni è andato a fare la spesa, siamo qua. C'è anche Franco da Sosso in quei ricchisi, siamo qua. Sì, sempre spendendo così sta, i pipistrelli sono così. Dopo si calano, succhiano, capito? Ah ragazzi, se ti cida lui non le fa niente, allora ci fa un colpo in pala. E via, va bene, già sono qua, non problem. Ok, dai. Mi dimentico sempre quando entri tu di staccare il processore, se no ti faccio sotto. Valerio! Aspetta. Ehi, è Natale, sì. C'hai dei picchi belli, è Natale. Non tocca se, lascia stare tutto così. Santiago 6 con picchi modulazione quasi a 7, sì. Bella modulazione. Va bene. Ottimo. Come Valerio, ti arrivo più forte? Non ho toccato niente, ho staccato solo il processore. Staccato il processore perché siamo molto vicini in linea d'aria con Gianfranco, capito? Ed è troppo amplificata per lui. No, ti può sentire Natalino. Arriva qua molto bene, adesso ha cambiato baracchino, ha sistemato qualcosa, però ancora non ha la possibilità di mettere l'antenna fuori, capito? Perché lui è in una palatina dove lui è basso, come piano. E per poter montare l'antenna ci vuole l'autoscala. O l'autoscala o una scala alta da 9 metri. E quindi siamo in attesa di recuperarla e poi si fa il lavoro, capito? Ma penso per questa primavera è tutto a posto. Adesso mi si girano le palle, vedi l'altro poi della scala. Ma vedi, tanto mi nata lì. Fai zotta, gestendo da uno all'altro. Oh, PP3, mi sente Natalino, Santiago 7 sta arrivando qua. Oh, prova Natalino, sono a casa, Allora, Santiago 9 modulato, 6,8 e 3 quarti, modulato Santiago 9. Tu stai sfruttando adesso più watt e meno picchi, cioè quello c'ha 40 watt in AM, tu li puoi dare o in watt o in picchi. In questo, ieri arrivavi Santiago 6, portante muta e 8,5 modulati, capito? Quindi li puoi sfruttare come vuoi tu, o più potenza o più picchi modulati, capito? Ne è versatile quella radio, dai. Però Marco, hai visto come la porta lui a differenza di Gianni? A Veri è bella. Sì, guarda, tra lui e Gianni c'è un abisso. Cioè io appena l'ho sentito, la voce era di Natalino, ma Gianni usciva tutto così. È incredibile cosa può fare una voce a parità di apparato. Vedi, io guarda, sono senza processore. Senza processore, perché sennò è troppo forte, sentono, qua c'è gente, sento un sacco di casini. Senza processore, la modulazione è tranquilla. E Natalino col 44 lo prendevano per me, c'è una bella voce, una bella modulazione, una bella squillante, capito? Evidentemente Gianni c'era più chiusa e quindi non lo portava bene. Sì, Gianni è una voce più cupa, anche col 140 era molto più cupo di voce, capito? Però Natalino, un consiglio, io gli darei un po' meno watt, cioè abbassa gli watt mic gain, sfrutta più il mic gain che non i watt, così hai picchi, forse scalda anche meno, perché quando gli dai la potenza continua, alta, scalda di più, capito? No, è uguale il segnale, Natali, è uguale. Abbassalo di più, prova un po'. No, la potenza è uguale, il segnale è uguale, tu non stai toccando la potenza, stai toccando un'altra cosa. No, l'ho abbassato qua. Ah, tu vuoi dire Santiago 1, allo Smitter, sì, sì, sì, adesso capisco. Guarda, hai migliorato tantissimo come segnale, hai migliorato tantissimo, quello vuol dire che il cavo o il PL erano proprio messi male. Tu pensa, se mi arrivi 9 in queste condizioni, figurati con l'antenna esterna come mi arrivi, mi dovresti arrivare come Salvatore, uguale a Salvatore che elimina le San Francesco. Ehi, hai visto, ecco, cosa può fare un cavo ossidato, perché prima eri anche basso di segnale, adesso sei da 8 con picchi a 9, 8 con picchi a 9, vai, vai pure Claudio, fai girare, dai. No, qua è tornato, si è abbassato a 5, ma i picchi sono sempre a Santiago 7. E va benissimo alla grande, che per me non ti sento, Natalia, se c'è un po' di QRM ti sento. Peccato che non ti sente il Valerio. Vabbè, comunque va benissimo alla grande. Ottimo per la truppa, va bene. Avanti Valerio, mica è entrato ora a Pignara. Qua la verità non ci ho badato, io so solo che lo può mettere e togliere. Natalì, il bip ce l'hai? Non ci ho badato. E non rispondi. Ecco, adesso l'hai inserito, Valerio, adesso l'hai inserito, prima no. Ehi, Natalì, sì. Valerio purtroppo non ti ascolta, non ti ascolta, il bip che sentiva non era il tuo, dai. Ok, Claudio, non so che ci sia, fai girare, prima c'era Massimiliano, c'era, chi altro c'era? C'era Cucera, Mastro Ciccio da Tabacchera. Tutti c'erano, tutti, tutti qua era. Sandro è in quell'X che sta facendo, lavorando, Massimiliano è uscito. Per l'Europa non so, è uscito. Gianni è andato a fare la spesa e noi siamo qua, capito? Noi siamo qua. No problem. Lui è che ho 7:20 e io questa sera c'è Juventus Milan, grande festa a casa di Zio Claudio, nessuno me ne poi qua sono tutti i fornelli, tricche e tracche, Ascolta, ma per quella cena nulla, no? Non se ne parla, giusto? No, non ci andiamo domani, come fa? Non c'è nessuno, siamo solo noi. Non c'è Stefano, ma è. Mi interessa ci sia Stefano, anche siamo tutti, capito? Non c'è Eugenio che deve andare fuori, non fa. L'abbiamo rinviata, ci abbiamo messo tutti, capito? Dovremmo essere almeno una decina. Eia, ma tutti chi, per esempio, chi porteresti? Sponponio, lo porti? Non so se vuole venire Antonello. Lo volete anche a Giulio, ma Giulio non sta bene, quindi magari si rimette per la prossima volta. Niente, soliti, Elio, Stefano che non c'è, poi c'è Valerio, c'è Eugenio che si è aggiunto, io, tu, Gianni, poi chi c'è? Adesso non mi ricordo, comunque qualcun altro, va. Massimiliano, vabbè, Pizza non ne mangia. Sandro c'era libero, capito? Dobbiamo organizzarci bene, più o meno c'è tutti. E Natalino? Natalino, Natalino, no problem. Tutti quelli che vogliono venire, del nostro gruppo però, non del gruppo dei miserabili. Ma io però, vabbè dai. È che il problema è che Pomponio si beve tutta la birra che hanno in pizzeria. Ma infatti le mettiamo la cannuccia e lo facciamo sedere fuori a lui, nella porta, capito? Così ognuno che entra le mette un euro. Allora Natalia, attacchiamo la pompetta col bidoncino, capito? Lui succhia, no? E quelli che entrano lì nella porta le mettono un euro nel cestino, così noi mangiamo a gratis, però va lì. No, adesso appena si libera Stefano, magari c'è una giornata di riposo, ci organizziamo. Tanto io sono sempre disponibile, tu sei sempre disponibile, noi non abbiamo problemi, capito? Eugenio, basta non lo facciamo di sabato, facciamo di venerdì sera. Gianni aveva preferito di sabato, capito? Però non c'è problema. già ce n'è di gente, sì, ha voglia gente che c'è. No problem, no problem. La volta che a Giulio, poi vabbè, glielo ridico, perché no, non è stato bene, era sempre a mal di gola, quindi vediamo quando si riprende, poi lo diciamo anche a lui. Va bene, cambio. Me che finisco i soldi, mi. Mamma mia, sto stringendo la cinghia, mi sto stringendo le mani anche per non spendere. Roberto, non ti preoccupare, tu spendi due cosette oggi, due cosette domani, la mazza che te ne varia a te alle cosette. Poi quando dobbiamo andare non ti preoccupare per ciò, già pago io per te, poi quando prendi la pensione me la restituisci. Cazzo la pensione! Sì, no, no, ma spero di partecipare, dai. Avanti Brecchese, non c'era un Brecchese, chi è che ha parlato? Natalino era, cosa hai detto Natalino? Ma non tocca se tutto, non ti preoccupare, che no, non ce n'è problema, che già non ti lasciamo a piedi, già lo sai. Quando c'è zio Claudio tu scendi nella porta di ferro, quando prendi la pensione poi me la restituisci, vero Valè? Cazzo, tanto pensione non ne prende qui, non me la restituisce, non hai capito? E mi accetti i pagamenti in natura? Ah? Oh, un cacchio ne era, Liu, già ne era troppi, ne era aria, sta sempre spendendo. Oh, mi sono uscito, ho preso due cosette, adesso sto nella città mercato, sto prendendo due cosette, cazzo, con queste cosette è sempre comparendo in balò. No, in natura ho detto, in natura, te li fai dare da mamma. Ma no, mamma è natura, non ci intendi. Bravo. No, sono meglio io, è la verità, adesso sono più giovane, sono meglio io. Se poco sei feuga, tu mi rogio, passa via. vabbè dai. Ui. Un'altra maledetta giornata se n'è andata. Ah, ma ascolta, ma la partita oggi è in chiaro o a pagamento? Solo su Premium e Bu, ti ho visto? Juventus Milan, e qua c'è un bel gente, adesso fa un po', mi preparo, sono ancora in pigiama, l'avevo sistemata, vado a portare il cane, mio genero con la truppa sono andato al barbiere, verrà verso le 8. E stanotte ci guardiamo la Juventus, ci sono anche due milanisti, ma dimmi tu se io devo sopportarmi anche i milanisti stasera. Boh. Il primo che parla ce lo butto al secondo piano. Posso pindacciare? No, mi sto già toccando, vince la Juve, vero? No, non voglio dire niente, dai, se no fuori. Una volta mi ha detto, se perde non ti faccio più parlare, e quindi è meglio non dire nulla. Vabbè, devi tenere conto che stanno giocando a Torino. La Juventus a Torino non ha mai perso, però non si sa mai, capito? Non si sa mai. Il Milan è una bellissima squadra, a prescindere dalla differenza di punti che hanno in campionato, però è una bella squadra. Perciò io dico vinca il migliore, sono juventino ma sportivo, se vince la Juve è meglio, però dai, capito? E tu Natali, che squadra tifi? Natalino, che squadra tifa Natalino? Natalino tifa per il piatto cupudu. Il piatto cupudu, e cos'è? Il piatto fondo. Ah, non è sportivo, dai. Ma che ore sei? Marco. Aspetta, parlando Natalino. Lo sa, a te che lo sa Marco, cosa vuol dire il piatto cupudu? No, appunto, mi sembra una miseria. Io parlo italiano, Sandro, io queste lingue strane non le conosco. Ma lui lo sai che è un belino, eh? Lui è belin, è genovese, belin. Ah, lo streghetta. No, lo streghetta è veneto. Ed è belin, situato lì, capo di Bugnetta, va bene. Ah, sì, certo, Bugnetta è veneto, bravo, sì, belin. Praticamente un gabibbo sono, dai. Bravo, non te lo voglio dire, ti assumi di burro al gabibbo, Cazzo, vale. Ma cosa mi tocca sentire a me, Come lo chiamate voi il piatto fondo ad Alghero? Non me lo ricordo, mamma ogni tanto lo dice. Piatto fondo, come lo chiamate ad Alghero? E adesso se il porottore si dice, rubiato cupudu. Allora che tu c'hai un bel link. Ascolta a me, ma poi quella telefonata l'avevi fatta, Giuseppe? Sì, fammi sapere, perché io ho continuato a chiamarlo, ma il telefono è sempre muto, capito? Non vorrei davvero che sia il QTHH, questo mi dispiace. Sì, me l'avevo detto, c'era la pressione bassa, infatti gli ho consigliato di andare lì in via Sant'Agostino che c'è il gommista, però mi ha detto che non aveva tempo. Avanti, oh Marco. Deia. Anch'io soffro un po' di pressione bassa, prima, anni fa non ne avevo. Avevo 120-80, 130-90, così. Poi è cambiato un po' tutto il metabolismo mio. Adesso tendo ad avere pressione bassa, 110-70, 105-65, un po' bassina. È cambiato proprio, la pressione è cambiata, non lo so perché. Chissà che sia la volta buona. Va bene. Riprendi da lì. Marco, se c'è la pressione bassa già te la do io, capisci? C'ho la bottiglietta del FAT, quella della moto. Solamente vicino al microfono, ogni tanto le dai una pompata, vedi che ti tira su, c'è anche la schiuma quella, eh. Bello. E l'attacco della valvola dov'è però? Dove ce l'ho? A culo di attacco e attacco della valvola. E soffi. ma che domande mi fai, scusa, io c'ho la bomboletta. Poi c'è il raccordo e ti vai la manovra. Ma io sapevo già la risposta, ecco perché ho fatto la domanda. Ma anche ti ho preso a costiglia, hai capito come mi tratta, ovale? Tutti noi ci direi che è nel pipistrello, che... Oh, yeah. Io fatemi vestire, dai, riprendete che sono qua comunque, che mi vesto un attimino, sono combinato un accidente, oggi sono già le 8:25. Vestiti, dai, vestiti. C'hai gente da invitata, e quanti siete? Chi siete? Più gente del normale? Vabbè, vestiti dai, dopo ve lo dici. Eia, peccato che la partita non sia in chiaro. Pensa che con quel trasmettitore audio-video che avevo io, se avesse funzionato, io potevo cercare sui canali le frequenze, qualcuno che trasmetteva la partita con quell'aggeggio e guardarmi la partita a sbaffo come facevo una volta. Sì, già lo conosco quell'aggeggio, poi con la buona maestore ce l'avevamo anche le schede, quelle cose, capito? Va bene, dai, mi vedo, vai, bravo. Comunque quello che faccio io non arriva solo a questo, no. Io non sono calciofilo, però certe volte volevo vedere certe partite. Allora, cosa ho fatto io? Avevo il transverter, come si chiama, quello che trasforma da 12 a 220, no? E ho messo un televisorino piccolo in macchina e questo trasmettitore audio-video, no? Mentre guidavo, muovevo le frequenze di ricezione. Quando beccavo qualcuno che stava rimandando la partita nell'altra stanza, mi fermavo, mi prendevo la posizione ottimale, poi io dalla macchina mi guardavo la partita a sbaffo, quelle su Sky, mi copiai. Ma adesso sono io che non sto uscendo, mi. No, già sto uscendo. E anch'io ho sentito qualcuno. Natalino già mi capisce, mi. Capito, andavo in giro a cercare gente che trasmetteva col video sender la partita e me la guardavo a spaffo, da dentro la macchina. Sì, Valerio, no, a Natalino rispondo, sì, l'inverter, no, a Valerio, giusto, inverter, in modo da alimentare il televisorino e il trasmettitore, il ricevitore audio-video, diciamo, no? Perché alcune persone per vedere la partita nell'altra stanza hanno questo piccolo aggeggio che trasmette l'audio e il video al ricevitore nell'altra stanza, no? Molti si guardano le partite, io mi cercavo un canale dove ci fosse qualcuno che faceva questo, me lo guardavo dalla macchina, la partita al di Sky, no? A pagamento me la guardavo a sbaffo. Oh, vado a portare il cane, arrivo subito, a dopo. A da voi, dai. È carino quel cane che hai, Natalino. Molto simpatico. Molto simpatico, dai, molto, molto allegro. Se lo vede mamma se lo bacia tutto, meglio il cane. C'è una fiscia per questi cani medio piccoli, piccoli o medio piccoli le piacciono a lei, non grandi. E infatti io come ho messo la mano, ho detto, dai, proprio mi ha messo la zampa nella mano. È bello. Il gatto era invece drumitto, non mi ha considerato molto il gatto, dai. Non aveva nemmeno paura, mentre il mio gatto, c'è un gatto puffa, la gatta più grande, quando vede strani ha paura e si nasconde. Invece Flo non si nasconde, anzi guarda chi c'è, certo sta un po' sulle sue, però bene o male. Ehi, dimmi una cosa Natalì. Cos'hai? Il turbo modulatore inserito o sei senza? Paghisso è, ogni radio. Caspita, con te rende bene con la tua voce. Proprio c'è un abisso con Gianni, è vero, guarda. Tu lo dovevi sentire, non so se l'avevi sentito. Usciva tutto, sembrava una patata in bocca, soffocata era la radio. È incredibile, guarda. Torna. Che c'è, non senti? Cucù. Ma Natalino ha detto che non sente di nuovo, ma è possibile che esce e non sente? Quel cavo allora non è stato fatto bene, bisogna rifarlo meglio. Ah, insomma hai fatto spaventare Natalì. Ho detto di nuovo il cavo, e allora come fa a uscire, uscire il segnale e non sentire? Ehi, aia. Poi ti farò vedere un'altra cosa. Farò vedere un'altra cosa che ne riparliamo, dai. A seconda di come te la lascio a te, te la do proprio. Vediamo, dai, aspettiamo un attimo. E ne abbiamo il tempo, dai. Un'altra volta me lo fai vedere. Non so perché, Natalina, io ho un apparecchio simile, molto simile, di estetica, però non ha il turbo modulatore. Per il resto il microfono uguale, tutto uguale. Però c'è un problemino in banda laterale. In banda laterale trasmette un fischio. Però quello, siccome è uguale, è utile per i pezzi di ricambio. In AM esce bene, in AM esce bene, in FM esce bene. È capace che te lo lascio per i pezzi di ricambio. E comunque in AM va bene quanto l'altro, Si chiama Magnum Delta Force, Magnum Delta Force, è il gemello minore, è il fratello minore di quello che hai tu adesso. Magnum Omega Force, oppure si chiama anche Magnum S45 HP, HP sta per High Power. Ecco, l'altro è leggermente inferiore, no? Non ha il turbo modulatore, ma grazie a Dio anche quello di radio è buono, E quello, siccome è uguale, va bene per pezzi di ricambio. Se ci dovesse rovinare qualcosa, tocchiamo ferro, se ti do quello, tu puoi levare i pezzi da quello lì, capito? Tranne il finale che è diverso. Sì, non è rotto, è solo una taratura da fare. Bisogna tarare lo stadio finale sicuramente, cosa che però io non ho voglia di farlo, di portarlo, capito? Però in AM va bene, molto bene in AM. Ehi, però mi devi dire una cosa, prova le cuffie, fammi, togliti questa curiosità, prova le cuffie. Ehi, guarda che le prese sono due però dietro, Una è il PA, che ti ha per usarlo come altoparlante, l'altro è le cuffie. Ehi, Valerio, mi stavo parlando un po' con Natalino, deve fare una prova con le cuffie per vedere se funzionano, perché in quell'apparato non le ha mai provate, capito? Valerio, ehi Valerio, pensa che io non ho ancora pranzato, sono da stamattina che ho fatto colazione e digiuno. Però non va bene, non va bene. Qualcuno qua ha detto proviamo a rientrare nei ranghi, negli orari normali. E io ho detto proviamo. bisogna vedere se ci riusciamo però a rientrare nei ranghi. Tentare non nuoce, non è una cosa così difficile. Proveremo, dai, vediamo di rientrare nella normalità, perché questa è proprio una cosa strana, dai. Ok, buona cena Valerio, ci sentiamo, dai. Buonasera, buon tutto. Eia, ciao Valerio, dai. Ebbene Natalino, funziona, no? Come mi senti in cuffia? Vedi un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, e non mi rispondi. Natalino, non c'è più nessuno qua. Natalino, aspettiamo, dai. Mi è sembrato di capire sì che funzionano. Vediamo la conferma. Aio. Gianfranco, ci sei all'ascolto? Era per saperlo, dai. Tu riesci a sentirlo, Natalino, per caso? Ah, arriva anche da te, buono. No, perché lì pomeriggio si è assustato perché non stava ricevendo più nulla. E aveva il cavo dell'antenna tutto disastrato, l'antenna veicolare, no? Tutto disastrato era. Rischiava anche di bruciare i finali, pensa. E infatti ieri era più basso, oggi arriva a 9 praticamente, modulati 9. E ok, dai, va bene, prosegui quello che stai facendo, dai. Natalino, danno è fatto. Se ci sei batti un colpo, o anche due. Poi come parlare al muro, vabbè, sono in ascolto, dai. Eccomi Natalino, non rispondevi prima, dimmi, le cuffie funzionano? Ma pare strano, dai, prova a metterle e toglierle più volte. Mi assento un istante, torno subito. Eccomi, dimmi tutto. Eia, mi vedi? Che palle, mamma mia. Ma prima si sentiva che si sia accavallato quella lamella lì. Ma quindi adesso levando le cuffie non si sente più. Allora la lamellina, forse tocca e non torna nella posizione normale. Bisogna fare un po' di gioco lì allora. O aprire e metterla a posto. E che cavolo, mai usate, già cominciano a rompere le scatole. Sì, siano un piccolo falso contatto, diciamo. La lamella non torna in posizione naturale, dai. Già c'ho l'altro anche mi. L'altro. Se si vuole fare un trapianto di presa di cuffie mi. E prova a inserire lo spinotto delle cuffie e fallo girare dentro la cosa per vedere se poi togliendo ritorna l'audio. E intanto apri sotto dove c'è l'altoparlante lì e tocca un po' quelle lamelle, quelle lamelline là delle cuffie per vedere se ritorna, se tocca, capito? Lì però, caspita, non le ho mai usate quelle. La spina a cuffie è già com'è, di quelle piccole o quelle con la testa grande. Ah, caspita, sono buone. Sono pure buone come cuffie. Ah, non lo so Natalì, non lo so quello. Io non me lo ricordo, no. Però forse le lamelle le vedi da dentro. Non lo so Natalì, non me lo ricordo io. Apposta Natalia, beh cosa hai fatto? L'hai toccato da dentro? Cosa c'era? Una lamella un po' mandrona? Ma adesso mettendo le cuffie e togliendole adesso funziona? Se no ricordati che c'è l'altro mi per pigliare il pezzo di ricambio, ricordati. Perché stai fischiando? No, appena un innesco, forse devi abbassare un po' la potenza. Ah, ok. Ebbene, Natalino, ci sei ancora? Ma la prova l'hai fatta, cioè infilando le cuffie e togliendole, adesso va. Dai, io sto mangiando, dai. Per oggi chiudo, dai. Ci sentiamo domani, ok? ma quel cavo, non me l'aspettavo fosse il cavo, lo sai, non me l'aspettavo. Poi domani ci sei a casa, se domani esco a una certa ora ti porto la scatola tutto più quell'altro apparato, ok. Naturalmente casomai ti chiamo prima, no? A domani, ciao ciao.